best primato per l'Italia, certificato a Londra, nero su bianco. Il nostro paese è il primo in Europa per evasione fiscale, dice uno studio del Tax Research London presentato al Parlamento europeo. L'ammontare complessivo delle tasse non pagate a causa dell'economia sommersa non ha infatti paragoni tra i partner europei. Ben 180 miliardi di euro, il 27% del gettito fiscale complessivo. Dietro di noi, nell'ordine, Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna. L'evasione tedesca ammonta a 158 miliardi, il 16% del totale delle entrate fiscali. Al terzo posto la Francia, dove il mancato gettito è di circa 120 miliardi. Segue la Spagna con un'evasione di 72 miliardi e la Gran Bretagna con 74. Alla fine della fiera emerge che l'evasione totale dei 27 sommata all'elusione ammonta a ben 1.000 miliardi di euro ogni anno. Il che vuol dire che se l'importo fosse completamente recuperato consentirebbe di ripagare tutto il debito pubblico dell'Unione Europea nell'arco di 9 anni. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.